senza mai pensare che sarà quel giorno in cui tutto finirà, e allora quel giorno chi l'aiuterà? Ma purtroppo nessun paga, devi di solo le vedrà perire. Non le servo tanti, ma la borsa in età, e le te la stanno a insegnare. La città la canta e se la gode nel suo sogno d'oro. Tutto ciò la incanta, è un paradiso fatto di illusione. Canta la cicala, felice canta senza mai pensare che verrà quel giorno in cui tutto finirà, e allora quel giorno chi l'aiuterà? Senza mai pensare che verrà quel giorno in cui tutto finirà, e allora quel giorno ti l'aiuterà.